Mario Borzaga nasce nella città di Trento il 27 agosto del 1932. Lui è il terzo figlio di papà Costante Borzaga, mentre la mamma si chiama Ida. Qualche anno più tardi arriverà anche la sorellina Lucia, proprio dai cui racconti, cari amici, abbiamo attinto la vita di questo martire. Intanto il piccolo Mario è purtroppo di salute gracilissima e i primi mesi di vita sono davvero difficili per lui perché rischia la vita. E lo sono naturalmente anche per la mamma. Tutto però viene superato, questa prova grande che vedremo, proprio grazie all'amore che regna in questa famiglia e alla profonda fede che si vive in essa. La stessa mamma Ida racconta: a 2 anni e mezzo si ammalò gravemente di broncopolmonite. Il dottore veniva in casa 2 volte al giorno per curarlo, dandoci poche speranze. E con grande dolore lei si sentiva dire dal medico: pensate che avrete un angiolino in paradiso. Io vegliavo però, diceva Ida, giorno e notte, pregavo Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco, ma purtroppo la settima notte, da quando era iniziata questa crisi, non dava segno di vita. E invece, cari amici, la preghiera di questa mamma viene accolta dalla Madonna e il miracolo nasce, perché Mario si riprende subito e supera così questa grave malattia. A 3 anni, quindi l'anno dopo, subisce anche un'operazione alle tonsille che lo vede rifiorire. È un bambino tranquillo, sereno, creativo nei suoi giochi, molte volte anche determinato. Ancora piccolissimo si mostrerà amante delle altezze, della bicicletta, delle lunghe scampagnate e le colline circostanti non avranno segreti per lui. Soprattutto le cime degli alberi in giardino diventeranno il suo rifugio preferito. E qui con i fratelli, con gli altri bambini del quartiere dell'oratorio, partecipa a tutti i giochi. E il suo mondo sarà un susseguirsi di esplorazioni, di conquiste. Inizia così le scuole elementari nell'ottobre del 1938 e continua questa sua vita spensierata e allegra, sempre in compagnia dei fratelli e dei tanti bambini del vicinato. E proprio l'oratorio dei padri Bertoniani, una fucina, possiamo dire, di cultura religiosa, ma anche di passatempo, di teatro, ha una grande importanza nella crescita, nella fanciullezza del nostro futuro beato. A 6 anni, infatti, fa già parte del gruppo dei Chierichetti e con grande fierezza indossa la tunica bianca di San Tarcisio, sappiamo martire giovanissimo, a cui egli sarà sempre particolarmente devoto. Nel frattempo arriva anche la sorellina, Lucia. Mario ne è conquistato. Lucia sarà la sua compagna prediletta di giochi e anche di escursioni. Ma anche il papà dà da fare subito ai 3 maschietti di casa e li affida compiti ben precisi, sia in casa che in giardino. Tutti devono dare una mano ed è sempre un fervore di attività. Ma soprattutto, cari amici, in questa casa non manca mai la preghiera. Infatti il punto fermo è la recita serale del Santo Rosario e proprio papà Costante, il primo ad inginocchiarsi, anche se stanco dopo una giornata di lungo lavoro. Lui, che è maestro falegname in una scuola cattolica, deve provvedere, oltre al buon andamento della bottega, anche all'apprendimento dell'arte del legno ai fanciulli non udenti. Ma anche il momento storico che si sta vivendo, cari amici, è molto difficile. Infatti il regime fascista si impone in modo severo, violento, e Mario a modo suo lo contesta, cioè un bambino che non le manda a dire. Alle sfilate obbligatorie dei piccoli balilla, infatti, arriva sempre apposta con qualche cosa in disordine. Viene quindi eliminato e lì si gode tranquillamente la sfilata dal bordo del marciapiede. Arriviamo nel 1940, quando però scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E questo dramma aumenta ancora di più povertà e sacrifici, che già erano tanti. Infatti il freddo e la fame avevano già fatto la loro comparsa da tempo, quindi prima della guerra. In quei periodi, dove a volte mancava anche il necessario per vivere, in quella famiglia le mani di mamma Ida sapranno far miracoli per arrotondare il piccolo stipendio del papà. E l'amministrazione familiare è veramente tirata all'osso. La mamma, ottima sarta, per cercare anche di rimettere a nuovo i vestiti usati dai piccoli, dai bambini, cercherà di rimetterli sempre a nuovo in modo che se li passavano praticamente di fratello in fratello, non c'era la possibilità di poter acquistare vestiti nuovi. Nel contempo però anche la città di Trento comincia ad essere teatro di continue incursioni aeree e qui mamma e papà organizzano immediatamente l'evacuazione alla prima sirena per trovare scampo nei rifugi antiaerei. Vediamo anche con quale angoscia si vivevano questi momenti, per loro ma per tutti. Proprio quell'anno, il 14 marzo, Mario riceve anche la prima comunione e ricorda così nel suo diario: era una timida giornata di marzo, senza sole e senza nubi. Accalcati a centinaia nel grande Duomo, nel Duomo di Trento, andammo a ricevere Gesù nei nostri cuori di bimbi. Grandezza della grazia. Gesù mi disse ben poco, ma quanti fra tutti quei ragazzi sono stati scelti come me ad essere sacerdoti e missionari? Non ho voglia di sapere per non impaurire, sentiva questa grande responsabilità. La mia delegata dei fanciulli cattolici mi regalò un'immaginetta che conservo ancora. Sono passati tanti anni e Gesù è venuto tante volte nel mio cuore. Allora ha parlato e mi ha detto tantissime cose, spesso però mi sono ridotto a chiudere gli occhi. Intanto però il servizio all'altare, lo spirito di preghiera fecondo e grande trasmesso dai genitori, anche la vita dell'oratorio, maturano in lui il desiderio di diventare sacerdote. Lui è ancora piccolino, siamo nel 1943, ha 11 anni, ma nonostante l'età, con grande entusiasmo, dice questo desiderio ai genitori, genitori che in un primo momento restano un po' sconcertati, sorpresi. Poi decidono di consultare sia il maestro che il rettore del seminario minore. Non manca in loro la titubanza, sia perché era piccolino, aveva 11 anni, ma erano anche preoccupati perché c'era la guerra, quindi erano momenti terribili. Alla fine però si rendono conto del suo desiderio, che è sincero, e quindi, dopo aver parlato anche con il rettore del seminario, accolgono questa richiesta. E Mario trascorre la festa di San Luigi in seminario per rendersi conto, anche per conoscere il nuovo ambiente. Quella sera ritorna a casa, dice, soddisfatto e contento perché ha già fatto la sua scelta. E qui, molti anni dopo, siamo nel 1956, sempre nel suo diario, fedelissimo, scrive: se non sbaglio, 13 anni fa avevo 11 anni. Entrai per la prima volta in seminario, precisamente ad Arena, cioè era un paesino. Credo che quel giorno il mio angelo custode abbia avuto parecchio da fare. Mia mamma, sofferente per un'operazione ad una mano, mi affidò per il viaggio ad un uomo che conosceva, che andava al medesimo paese, cioè ad Arena, ma ad un'ora di cammino dall'arrivo mi lasciò solo. Quindi praticamente quest'uomo mancava un'ora ad arrivare, ma lui doveva andare da un'altra parte, quindi gli disse: vai diritto che arrivi sempre ad Arena. Questo aveva 11 anni, voi potete immaginare, insomma, anche la paura che aveva. Però disse: non piansi. E continua: una donna che mi vide passare lento e sovraccarico di roba mi fermò e mi fece posare a casa sua i bagagli. Poi un angelo mi condusse nel buio fino al seminario. In effetti, poi dalla casa di questa signora, che non era ancora vicino al paese, da solo arrivò al seminario. Lui dice: un angelo mi condusse nel buio fino al seminario, una delle più grandi grazie della mia vita. E proprio in questo modo, cari amici, il nostro beato ricorda la sua prima entrata in seminario, lontano da casa, sfollato allora in un paesino sperduto in mezzo ai monti, perché a Trento era incombente il pericolo dei bombardamenti, quindi non si poteva, non poteva entrare in seminario nella città. E proprio da qui, da Drena, Mario Borzaga scriverà tutti i giorni una cartolina alla sua mamma. Poche parole, ma sono per tutti i componenti della famiglia. La nostalgia, possiamo immaginarli, a 11 anni è fortissima, ma anche la povertà era grande, anche all'interno del seminario, e gli stenti non si contano. Il freddo, anche la fame a volte. e poi ogni sorta di pericolo sempre in agguato a causa della guerra ancora presente. Terminato intanto la prima media, raggiunge in questo modo la mamma e i fratelli in Val di Ledro, dove erano fuggiti dopo il devastante bombardamento del 13 maggio del 1944, parliamo sempre di Trento. Qui, dopo aver passato alcuni mesi con loro, l'11 novembre dello stesso anno ritorna in seminario, questa volta a Roncone. Ma ora sarà la mamma ad accompagnarlo e la mamma se ne distaccherà col cuore veramente straziato. A questo si aggiungerà il dolore grande di non aver potuto riabbracciare anche il papà, lontano anche per lavoro da più di un anno e mai più visto. E proprio tra papà e Mario c'era possiamo dire, una tacita intesa, una comunione profonda, fatta di amore e di grande stima reciproca. Il papà, uomo costante, uomo di fede e di preghiera, era fierissimo di questo figlio ed era infinitamente grato al Signore di averlo tanto onorato, al punto da scegliersi uno dei suoi figli per essere sacerdote. E arriviamo così al 1945, il 25 aprile, e termina finalmente la Seconda Guerra Mondiale. Dirà la mamma: cessato il pericolo, siamo ritornati a casa ringraziando il Signore di vero cuore. E nell'autunno dello stesso anno il nostro beato ritorna in seminario a Trento ora per frequentare la terza media. Dirà la mamma: era contento di essere vicino alla propria famiglia. Si poteva stare insieme spesse volte, parlare di tutto, tanto gli piaceva raccogliere in sé quanto accadeva in famiglia. E si sentiva amato da tutti, anche se non mancavano a volte prove e incomprensioni, anche per un po' per il suo carattere, timido, introverso, insomma, un po' romantico, anche a volte un po' estroso. Ma soprattutto la preghiera è sempre presente e nello studio va bene. E socievole con i compagni. La musica classica in particolare è la cosa che lo attrae sempre di più. Lui oltretutto sa suonare molto bene il pianoforte, ma ovviamente non se lo poteva permettere. Amava il pallone, la bicicletta, anche le escursioni sui monti non lasciavano spazio alla monotonia. E proprio lui ricorderà quegli anni come il tempo più felice della sua vita. Leggiamo nel suo diario. L'anno di quarta ginnasio, scrive, rimane finora uno degli anni più giocondi della mia vita. Amavo Gesù sacramentato e Maria, pregavo, la scuola riusciva bene e sognavo. Termina così il ginnasio e inizia il liceo, però al seminario maggiore. Qui naturalmente cambiano i formatori e anche i professori. L'impegno diventa molto più serio e ancor più grande e serio è l'impegno personale nella formazione sia umana che spirituale. E possiamo dire che Gesù, che lui ama molto, forgia in lui un'anima eucaristica contemplativa unica. La Santa Messa del mattino è per lui un'apoteosi e si prolunga durante il giorno in una personale ora di adorazione, profonda, unica, in un lungo ringraziamento nel quale lui chiede a Gesù con perseveranza di essere sacerdote, apostolo e missionario. Intanto, il 14 novembre del 48, lui ha 16 anni, riceve la veste ecclesiastica. E qui la mamma, in un momento, diciamo, tenerissimo e anche fiera, di questo suo figliolo, che amava profondamente, scrive così: la vigilia della vestizione gli portai tutto quello che si richiedeva ad un chierico, e tutto fatto con le mie mani. Era felice perché era stata lei a poter preparare tutto il corredo, diciamo, per Mario. E lui si avvia così agli studi classici con grande entusiasmo. Le sue giornate sono a ritmo serrato, soprattutto per quanto riguarda la preghiera. E su piccole agendine segna accuratamente i propositi, le giaculatorie, i pensieri spirituali, e grande spazio trova soprattutto il suo tempo davanti a Gesù Eucaristia. Prorompe in lui un grandissimo amore anche al Sacro Cuore e lentamente lievita in lui anche il desiderio dell'apostolato in terre lontane. Probabilmente non riesce ancora a capire perché sente questo, diciamo, questo desiderio, ma è il Signore che già lo stava preparando. Oltretutto, in quel periodo gli capita di trovare nella biblioteca del seminario delle riviste che parlano di missionari che lavoravano al Polo Nord, erano gli oblati di Maria Immacolata. E questa cosa gli resta comunque nel cuore. Nel frattempo va in terza liceo, supera tutto brillantemente, ma viene rimandato in filosofia. Torna a casa per le vacanze e qui, nonostante fosse stato rimandato, trova un regalo meraviglioso, qualcosa che mai si sarebbe aspettato, un pianoforte, sempre dono della mamma. Lui, sappiamo, amava molto la musica, sapeva suonare bene il pianoforte, ma non era possibile averlo. Ebbene, la mamma, con il suo silenzioso lavoro di sarta, aveva pian pianino accumulato il denaro necessario per comprargli questo bellissimo regalo. E la casa, ci viene detto, da quel momento, qui è la sorella Lucia che ce lo dice, sarà subito inondata di valzer, di serenate ed altro ancora. Quindi grande gioia, grande serenità, anche nella loro, insomma, non era gente benestante, nella loro misurata vita, ecco, in questo caso. E nel suo diario scrive: se ben ricordo, 5 anni fa, qui si rifà naturalmente all'esame di riparazione che doveva fare in filosofia, poi capirete perché lo dico. Se ben ricordo, scrive, 5 anni fa a Rovereto facevo l'esame di riparazione di filosofia. È una data importantina, perché ricordo che alla sera ci bevetti su un po' troppi bicchierozzi di vino e così, andato a letto verso le 11:30, sentii le tempie battermi forte e il rimorso di aver ceduto mi spinse a promettere a Gesù di amarlo di un amore torrenziale e come primo effetto riparatore ebbi il barlume, eccolo qui, di farmi oblato. Allora, in un primo momento sembrava una cosa passeggera, cioè una banalità, era un'idea così. Poi invece si rende conto che questa è un'idea che gli resta nel cuore, si sente proprio chiamato a questa via. Cosa fa? Prende coraggio e ne parla con suo padre spirituale, il quale ovviamente gli dice di aspettare, cioè di attendere un attimo, perché pensava, diciamo, un entusiasmo giovanile. Lui obbedisce, ma soprattutto prega tanto, prega la Madonna in modo particolare, chiedendo a lei questa grande grazia, e nel frattempo inizia il primo anno di teologia. Ma nel suo animo, più prega, più si fa forte questo desiderio di essere, come dice lui, sacerdote, apostolo e missionario, proprio in un dono totale, incondizionato. E qui il direttore spirituale si arrende, perché comprende che è un desiderio vero questo, è una chiamata. Mario però non vuole dare subito questo dolore, perché chiaramente vai a fare il missionario, vai in terre lontane, c'è il rischio che tu non ti veda più per tutta la vita, no, con la famiglia. Quindi cosa fa? Ne parla con Emilio, il fratello, e gli chiede così di aprire un po' la strada in famiglia, insomma, per cercare di preparare la mamma e il papà in modo particolare. La famiglia viene preparata, ma naturalmente, anche se non c'era nulla in contrario, anzi, restava il dolore di poterlo perdere. Ma lui alla mamma dice questo: sento che il Signore, mamma, mi chiama nelle missioni lontane oltre mare, dove si trovano tante anime che ancora non conoscono il Dio. Della nostra diocesi già siamo in tanti, sacerdoti e religiosi. Per farla breve, cari amici, fa una visita veloce al noviziato dei missionari oblati di Maria Immacolata, che è nel Molise, e dopo averlo fatto conferma la sua decisione. Così, cari amici, la mattina del 7 novembre del 1952, lui ha 20 anni, abbraccia in modo unico la mamma, il papà, i fratelli, la sorellina e parte. Il suo cuore si stringe nella sofferenza di questo distacco che è veramente doloroso. Oltretutto il primo impatto con il noviziato degli oblati è duro, perché ovviamente c'erano delle regole molto rigide. E in quel momento tutto, pensate, gli sembra tutto cambiato, come se fosse tutto brutto, ostile, ma non arretra, non torna indietro di fronte alle difficoltà, anzi avanza in questo suo cammino con una fedeltà e un coraggio ammirevoli, rispondendo alla sua vocazione. E così pian piano il suo animo si rasserena. Ai suoi intanto scriverà questa lettera e dirà: è passata la nostalgia e sono finalmente contento. Anche il paesaggio che prima mi sembrava così brutto, ora comincia a piacermi, anzi lo trovo qualche volta bello e poetico. E scrive ancora di più, e scrive: carissimi, vi devo comunicare che il giorno 20 novembre, giovedì sera, ho cominciato ufficialmente il noviziato, cingendo fieramente la fascia degli oblati. Sono molto contento di questo passo, e voi? Cioè cercava sempre comunque, sperava sempre che anche i suoi genitori, come era, fossero comunque lieti, contenti di questa sua scelta, e lo erano senz'altro, anche se naturalmente il distacco era doloroso, ma insomma, umanamente ci sta. Poi però assicura sempre la mamma e il papà che i superiori, dice, nulla fanno mancare. Qualche tempo dopo scrive ancora e dice: è un anno nel quale si saggiano le nostre, qui erano i superiori naturalmente che li preparavano, e scrive ai genitori: è un anno nel quale si saggiano le nostre possibilità di completa donazione, a svuotarci completamente di noi stessi, come si svuoterebbe un secchio di immondizie, senza rimpianti. E qui, con gioia e fierezza, potrà finalmente annunciare ai suoi cari che il 21 del mese di novembre del 1953 pronuncerà i voti, ma si raccomanda in modo particolare alle loro preghiere. E al termine del noviziato viene inviato a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, per terminare gli studi teologici che aveva iniziato a Trento. Qui le ore di studio si alternano però anche le ore di lavoro, e il lavoro è tra l'orto che viene coltivato e gli animali che vengono allevati, perché i padri facevano questo per vivere, fra le altre cose. Se non c'era questo, veramente si moriva di fame lì. E arriviamo anche all'autunno del 1956, quando il nostro beato decide di iniziare il diario di un uomo felice. È una felicità che gli nasce nel cuore, spontaneamente. Allora inizia questo diario che avrà sempre con sé e che ci darà però tanta testimonianza della grandezza e della fede di questo ragazzo, perché morirà, come vedremo, a 27 anni, quindi giovanissimo. E proprio questo diario, scritto in modo fitto, cari amici, senza ripensamenti, pensate, senza una correzione, per cui era certo che nessuno mai lo avrebbe letto, e invece non è stato così. Ma tra queste righe affiora la sua personalità. Vediamo la sua timidezza, il suo animo romantico, estasiato davanti alle bellezze del creato, e qui ringrazio il Signore di cuore, dei suoi dolori, anche dei suoi gusti. È inserito in modo pieno nel contesto della sua comunità, descrive anche con poche parole, misurate, affettuose, a volte anche spiritose, la figura dei compagni, degli amici, dei professori, dei superiori. Comprende bene di essere un chiamato, eletto per una missione ben precisa, e scrive: egli, Gesù, ha scelto noi, non i miracoli, per espandere il suo regno, e forse un giorno sarò soffocato nel pianto e nel sangue per amore di Cristo, come in effetti sarà. Si avvicina anche il tempo dei voti perpetui, ma in lui non ci sono esitazioni, dubbi, anzi, al contrario, afferma con sicurezza: ho capito la mia vocazione. Essere un uomo felice pur nello sforzo di identificarmi col Cristo crocifisso. E alla vigilia di questi voti, quasi come presagio di quanto l'attende, scrive: lo so benissimo cosa significa morire. So che è doveroso morire, ma se della morte fiorisce la vita, morirò tutti i giorni dall'alba al tramonto, traendo la forza da quel pane che è la vittima, cioè da Gesù. Quello è il sacramento dell'amore, dice, è il sacramento del dolore, della volontà del Padre, e da quello trarrò la forza per amare, per soffrire, fare la volontà del Padre. proprio il suo desiderio di donarsi totalmente, completamente, è veramente grande, cari amici. Ha un cuore con una passione infinita per Gesù, un cuore pieno di carità per i fratelli, un desiderio grande di donarsi pienamente e totalmente. Cioè Gesù lo sente fortemente in sé. E nel diario scrive ancora: alla comunione ho recitato ad alta voce con fermezza la mia oblazione perpetua e mi sono meravigliato di non tremare per nulla, nemmeno per il freddo, perché era una grande responsabilità. Poi Gesù è venuto in me, portandovi tutto ciò che un Dio vittima dell'amore può portare in un'anima che ha fatto oggetto del suo particolare amore. Lui avverte chiaramente che il Signore lo chiama ad un dono totale, pieno, dal quale è incessantemente attratto, e scrive: Gesù vorrà un giorno o l'altro chiedermi dell'eroismo. E il giorno dei santi innocenti scrive ancora: i martiri sono tutti innocenti. Se voglio essere innocente, devo essere martire. E la nostra massima innocenza consiste nel lasciarci morire senza discutere. E si avvicina così anche la data dell'ordinazione sacerdotale. E annota in questo momento nel suo diario: il Cristo che mi ha scelto è il medesimo che ha dato vita e fortezza ai martiri e alle vergini. E questo richiamo ai martiri è continuo qui. E dice: erano uomini come me, impastati di nulla e di debolezza. Sono stati scelti per il combattimento, hanno ricevuto le armi, hanno lottato e vinto. Anch'io sono stato scelto per il martirio. Lui in questo momento non immagina naturalmente di morire, cioè di un martirio di sangue, pensa a un martirio totalmente di una donazione, cioè mai avrebbe supposto, per lui era una cosa troppo alta questa, no? Quindi è quasi non meritevole. E continua: e se voglio essere un santo prete, non devo desiderare altro, cioè il martirio, perché questo è il mistero che ogni giorno mi sta fra le mani, il mistero del sangue, dell'immolazione totale, completa di sé medesimo, dell'innocenza frutto dell'umiltà davanti alle grandezze divine. Spero molto dal mio sacerdozio per la mia anima, anzi spero tutto. Credo che Gesù mi trasformerà completamente e interamente. Vorrà ristabilire in me un completo regno dell'amore e del sacrificio. E su questa strada meravigliosa, cari amici, meravigliosa ma anche faticosa verso il sacerdozio, in modo particolare gli accanto la Madonna, che lui ama in modo veramente tenerissimo e la invoca spesso e chiede aiuto a lei in ogni momento, in ogni istante della sua vita, in modo particolare nelle prove. E scrive: sono convinto che la Madonna ha una grande parte nel mio sacerdozio. L'Immacolata dice renderà l'anima mia simile alla sua, perché in essa con più agio riposi il cuore del suo figlio Gesù. Quindi un amore veramente pieno. E qui arriva la grande data, una data che lui attende febbrilmente e che, diciamo, lo fa felice, è proprio il termine corretto, quel giorno, è il 24 febbraio del 1957, viene ordinato sacerdote. È un giorno movimentato perché ha tutti i parenti presenti e si commuove, attorniato dall'affetto di tutti i suoi cari, soprattutto di mamma e papà. Il giorno dopo, il 25 febbraio, celebra la sua prima messa e scrive: il suo sangue nelle mie mani è zampillato sull'altare, il suo corpo è nato lì come dal seno della Vergine, perciò c'era anche lei. Poche parole, cari amici, che lasciano capire tutta la profonda unità, un tutt'uno con Gesù immolato, un giorno di grazia, un giorno di conversione. Scrive ancora: stamani avevo pensato di chiedere a Cristo, nato da me, la grazia assicurata del martirio, dell'apostolato, della predicazione, del ministero fecondo, e invece chiesi di osservare sempre alla perfezione la regola dei missionari oblati di Maria Immacolata. La grazia da oggi è stata concessa, ci voleva il sacrificio dell'altare. E proprio in questo cammino, cari amici, sulla via della santità, il suo amore per Gesù diventa grande, diventa enorme. E questo fa sì che questo amore si allarghi e diventi un abbraccio grande di amore anche per i fratelli. E così gli dice, lui vuole essere a dice, io voglio essere a disposizione dei confratelli per aiutare in essi Gesù. Si può fare a meno di calcolare il proprio tempo, cioè di non avere un tempo limitato, ma di donare il tempo che ci vuole. Colui che deve amare è fuori del tempo, quindi non deve avere un tempo, dicevamo, di un certo, deve essere illimitato questo tempo. Ma il mio tempo, dice, è di Dio, è la roba di Dio e di tutti. E arriviamo al 28 aprile, quando celebra la Santa Messa, una Santa Messa solenne, nel Duomo di Trento, circostanza che gli offre anche l'occasione felicissima di ritrovare i suoi amici, i compagni di seminario, ma soprattutto la mamma, il papà e i suoi fratelli. E arriva qui proprio anche il momento in cui viene chiamato dai superiori ad esprimere il suo desiderio per la futura missione. Lui cosa fa? Prega intensamente per capire cosa il Signore vuole da lui. Infine decide per la missione nel Laos e invia la sua richiesta al Padre Generale. Questa domanda viene accettata. E partirà in autunno, e l'autunno dello stesso anno, con altri 5 confratelli. Nel mese di luglio ritorna intanto a Trento e resterà fino ad ottobre, quindi fino a poco prima della partenza per la missione. Ma mentre è in casa, questa casa che lui ama molto, si rende conto che non è più quello il suo posto. E allora scrive: il mio posto è dove si piange, si soffre, si suda per amore di Gesù, la missione. E parte da Napoli per il Laos, dicevamo un paese poverissimo che attualmente ha circa 7 milioni di abitanti, di cui la gran parte sono buddisti, i cristiani sono l'1% della popolazione, grosso modo, E questo anche grazie alla presenza dei missionari che sono andati poi, come vedremo, tipo padre Mario Borzaga. Quindi parte con questi 5 confratelli da Napoli. Ma anche qui la sofferenza del distacco è grande. Però l'entusiasmo cancella in parte questo dolore e l'entusiasmo per questa nuova missione, diciamo, lo aiuta a superare ogni cosa. Si fa un mese di viaggio per mare e per terra prima di giungere a destinazione. La destinazione è la città reale laotiana di Paksane. Non nasconde la durezza del primo impatto di fronte al paese, è messo di fronte alla dura realtà che lo aspetta e lui si scoraggia perché non si aspettava, diciamo, tanta chiusura, tanta fatica e a volte sembra che il sacrificio sia inutile, ma non demorde. Inizia subito lo studio per l'anno di pastorale con i compagni, ma soprattutto si butta a capofitto nello studio del laotiano, cioè se riusciva a capirsi poteva anche diciamo, portare la parola di Dio, quindi aiutare alla conversione, far conoscere Gesù. E quindi senza perdere tempo, sacco in spalla, piede in bicicletta, come può, comincia a visitare i villaggi più vicini. Con la sua abituale generosità, è sempre pronto a dar manforte nei lavori manuali che non vengono mai meno, anche se soffre nel vedere che lui dice deve fare di tutto fuorché il sacerdote, perché allora, prima di cominciare, diciamo, ad essere accettato dalla gente del posto, doveva comunque essere gradito. Quindi dava una mano, insomma, cercava di farsi ben volere e pian piano aprire anche i cuori, no? Come poi in effetti sarà. Però in quel momento doveva fare quello, insomma, dare una mano. Ma vorrei fare però una piccola, prima di continuare, vorrei fare una piccola nota su descrivere brevemente la situazione politica e anche sociale del Laos che padre Mario Borzaga affronta in quei momenti. È importante perché ci fa un ritratto chiaro anche della fatica che si faceva allora. Anche oggi, ma soprattutto allora, perché erano i primi ad arrivare. E siamo negli anni 1950-60, quindi il clima politico internazionale in quegli anni è scosso, come sappiamo, dalla guerra fredda e anche dalla divisione del mondo tra le due superpotenze, cioè da un lato gli Stati Uniti, dall'altro la Russia e poi anche la Cina, perché non era da mettere in secondo piano in quell'area e che avevano grande influenza su tutti quei paesi del sud-est asiatico, quindi il Vietnam, la Cambogia, appunto il Laos e quant'altro. Insomma, questo lontano paese, stretto appunto, dicevamo, tra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia e la Cina, diventa proprio in quegli anni il terreno di una sanguinosa guerra civile che la storia ricorda con il nome di guerra segreta laotiana. perché ufficialmente non si combatteva, in effetti c'era e come, combattuta tra il 1953, voi pensate, andò avanti fino al 1975. Qui le forze rivoluzionarie del Pait Lao, cioè erano laotiani di ideologia filocomunista sostenute dal Vietnam del Nord e dalla Cina, ed erano oltretutto equipaggiate dalla Russia, combattevano contro l'esercito regolare laotiano che era sorretto, diciamo aiutato dagli Stati Uniti. Ma le forze di questi guerriglieri, appunto appoggiati dal Vietnam, compivano nel paese continue azioni, oltre che di guerriglia, anche di atti di terrorismo. Gli Stati Uniti, non potendo intervenire ufficialmente, diciamo così, inviavano in quel paese dei paracaduti di etnia Hmong, che era una un'etnia del Laos, quindi erano paracadutisti che, diciamo, si facevano anche, erano praticamente laotiani, quindi potevano anche prendere contatto con la gente, farsi accogliere, farsi anche, diciamo, proteggere in quel caso, no? E nel contempo penetrare all'interno del territorio. E qui questi paracadutisti segnalavano poi anche all'aviazione dove bombardare. Il problema è che molti dei guerriglieri si rifugiavano nei villaggi e quindi quando c'erano i bombardamenti, questi bombardamenti causavano la perdita di molte vite, soprattutto tra i civili. E qui vediamo, cari amici, che era pericolosissimo, insomma, cercare di evangelizzare soprattutto in questi paesi, in questo paese. Oltretutto c'era un'ostilità grande da parte di molti di loro verso, lo chiamavano lo straniero bianco, cioè verso i bianchi, perché probabilmente erano visti come nemici, e come sfruttatori. E proprio qui il nostro beato inizia la sua missione. E nel maggio di quell'anno mastica abbastanza bene, anche insomma pochino, la lingua laotiana e inizia così un lavoro apostolico nella zona montagnosa di Phong Khom e Pakadine. Si sente fortemente responsabile del compito a lui affidato dai superiori e per tutti quei fratelli insomma che va a trovare, che cerca di evangelizzare. Le giornate intanto passano veloci e scrive così: dall'altare allo studio, dalla croce alla gioia, una è la mia giornata, non c'è null'altro. Non mi stancherò di seguire Gesù, poiché Egli mi perseguita con la sua grazia, che è l'amore, che è vita. L'anelito del martirio è sempre presente, ma non è più un martirio di sangue. Il guaio, scrive, è che io sono molto più incline a fare martire l'amore che a farmi martire dell'amore. Quindi si vede un po', insomma, non ascolta molto quello che il Signore gli dice, ma non è così, naturalmente. Si sente molto indegno, ecco, anche di questa missione. Intanto a luglio lascia Paksan e sale verso le montagne di Khensadok e scrive: è giunta l'ora di andare solo con Dio, di andare solo per le strade che avevo sognato, per le strade che nessuno conosce, trascinato dal tempo in avanti, verso i figli di Dio che hanno bisogno di luce, di una fiamma, per riscaldare la breve vita e rischiarare il breve cammino. E non sarà sufficiente dare una medicina, dovrai dare la vita, dice a se stesso, la vita sublime che sei stato chiamato a vivere perché gli altri non muoiano. Sarà difficile e penoso come il partorire, scrive, questo è il mistero del dolore. E vive anche, qui c'è una grandissima tentazione, momenti di profonda solitudine, di aridità, proprio possiamo chiamarla la notte oscura che prende il cuore di tantissimi mistici, di molti apostoli e ognuno di noi ne ha a modo suo una più o meno oscura. E qui la ripugnanza verso tutto e tutti è molto forte, sembra incredibile, ma egli stesso afferma: la mia croce è di detestare sordamente coloro che dovrei amare, i laotiani, eppure per loro dovrò dare tutta la vita. La mia croce è la lingua che non riesco a imparare, non era proprio così, ma non era il massimo, insomma. La mia croce, dice, sono io, croce a me stesso. proprio per questo motivo, per questa notte oscura, questa grande tentazione, subentrano in lui anche momenti di grande sconforto. Il giorno del suo 26° compleanno, ancora una volta si chiede angosciato: quanti anni ancora di cammino? Quanto resta ancora di notte? Cioè di questo cammino quasi nell'oscurità, no? Ma la fiammella era sempre accesa. E nel frattempo, la fiammella della fede, riceve l'obbedienza per una nuova destinazione. Il giorno dell'Immacolata sarà Qyukhatian, un villaggio sperduto sulle montagne a nord del paese. E allora si riprende, con grande entusiasmo ancora, riprende il cammino, un nuovo viaggio verso il suo gregge. Lui era il pastore allora. Avendo già una discreta conoscenza del laotiano, inizia anche lo studio del Meo, che è un dialetto del luogo. E organizza anche qui la scuola di catechismo, comincia ad amministrare finalmente, qui è molto rincuorato, i primi sacramenti e ritrova in modo particolare, l'aveva persa, la sua fisarmonica, che manda in visibilio la gente, che è contentissima di ascoltare questa musica. Non mancano anche gli ammalati, ammalati che gli danno grandissima preoccupazione perché non c'è nessun medico lì, lui di conoscenze mediche ne ha poche, ma si arrangia come può, cerca di fare quello che può, cercando di curare, per quanto gli era possibile. Ma il tentatore, cari amici, si fa sentire. Lo assale il dubbio che il Laos non sia il luogo adatto per lui. Teme che il suo carattere non sia quello richiesto dall'apostolato missionario, troppo timido, troppo insicuro, timoroso di tutto. E la lentezza nell'imparare le lingue del luogo gli fa pensare di essere pigro, incostante, distratto. Non è così. Eppure sa bene, e in cuor suo lo sa ancora meglio, che non avrà mai, lui dice, mai un pollice di coraggio per chiedere di rientrare. Ma voi pensate, nonostante la tanta preghiera, il suo desiderio di amare tutti, la tentazione in quei giorni non lo lascia, è una cosa incredibile. Voi pensate che, questo perché? Perché naturalmente l'altro non voleva ovviamente che lui andasse avanti, ma che chiedesse la possibilità di rientrare. Rientrando non avrebbe mai fatto quel sacrificio che Gesù gli chiedeva. Questa era in fondo la verità vera, no? Ma voi pensate, il Venerdì Santo del 1959, proprio quel giorno, è salito in modo veramente terribile, scrive lui, dalla paura di morire, di impazzire, di essere abbandonato da Dio. Respiro a fatica, scrive, mi sento tutto sobbalzare, ma alla fine dice: non è nulla, Gesù mi ama ugualmente, io lo amo. E qui con coraggio lui continua, è una prova grande, senza dubbio una prova enorme. E in maggio arriva a Long Vai, un altro paese, un altro villaggio. Adesso si destreggia abbastanza bene con il laotiano e comincia ad avere anche incontri che danno frutto con i cristiani e i catecumeni di quella zona. Vedi che i cuori si aprono, che cominciano ad ascoltare, no? Ad accoglierlo. E la parola di Gesù riempie anche tanti cuori, tante anime. I viaggi sono sempre molto, molto faticosi, anche perché le strade sono impervie, poi molte sono sulle montagne. E questa situazione è aggravata anche dalla presenza dei guerriglieri che sono installati nella regione. E lungo tutto il mese un susseguirsi di viaggi, di catechesi, ma anche di fughe. E nel diario annota: ora non si tratta di meditare, nemmeno di scrivere la meditazione, ma semplicemente di viverla. E chiedere al Padre il pane per camminare e a Maria Santissima la strada. La strada è anche qualcosa di tenero attorno alla mia debolezza che piange, che stilla, che cade. Si sentiva nulla, si sentiva povero, si sentiva non capace, ma nonostante questo abbraccia fortemente Gesù e la Madonna e continua il suo viaggio. E il suo cuore ora veramente, dopo questo bagno grande di dolore, di umiltà, si apre l'amore per tutti gli abitanti dei villaggi e un villaggio in particolare gli viene poi affidato alla fine dell'anno, perché anche i superiori avevano visto la grande semina che aveva fatto, no? E era il villaggio di Qiucatian. Gli viene affidato questo villaggio molto grande, ma anche tutta la vasta zona circostante. Era enorme la zona che doveva, diciamo, dissodare spiritualmente. E lui scrive nel diario: ora sono solo con Dio e Gesù è tanto vicino a me che non mi sogno nemmeno un pochino di aver paura. Natale si avvicina, Gesù nasce nei nostri cuori in mezzo a tanta povertà, era lì, in mezzo a tanto silenzio e nell'assoluta mancanza di apparato esterno. Non c'era una luce, una candela, solo la fede, dice, lo riconosce, è Natale davvero. E si apre così il 1960. Ancora alcuni mesi di intenso lavoro, con l'amministrazione di nuovi battesimi, ma anche il conforto di vedere accresciuta la comunità cristiana del Qiucatian. I villaggi disseminati sulle montagne, per lui, ecco, in questi villaggi vede veramente una speranza grande, di tante conversioni, no? Dell'accoglienza della parola di Dio, di Gesù, e perché la gente lo ascolta adesso. E lui pone particolare attenzione alla catechesi proprio di questi nuovi cristiani, anche ai catecumeni, sempre pronto a incontrare tutte le nuove comunità che sono in via di formazione. Qui non ha un attimo di tempo, dona tutto giorno e notte alla preghiera e alla formazione. Ma la minaccia dei guerriglieri è sempre incombente, purtroppo, il pericolo è in agguato in ogni sentiero. Di tanto in tanto deve anche fuggire e porsi in salvo, altrimenti lo fanno fuori. E arriviamo a metà aprile, questo è l'aprile, diciamo, del martirio, perché viene chiamato con insistenza in un villaggio per curare degli ammalati. Lui, come sempre, sacco in spalla, eccolo qua, in compagnia del catechista Paolo Siong, parte. Questo giovane Paolo, che l'accompagna, è un ragazzo di 19 anni, notissimo all'interno della sua comunità di etnia Hmong, è considerato dal villaggio una sorta di ragazzo prodigio, per come è riuscito a entrare in sintonia con il nostro Beato, addirittura a comprendere, a fare i suoi gli insegnamenti del Vangelo, per cui, pur essendo molto giovane, lui affianca i padri missionari nell'opera di evangelizzazione del suo popolo. E quando padre Mario Bozzaga lo invita ad unirsi a lui nel viaggio, Paolo non esita un istante ad accompagnarlo, felice, anzi fiero di questo compito, e entrambi, con un arrivederci a tra 15 giorni, salutano i confratelli e dicono ai confratelli: ci rivedremo a Luang Prabang. Ma Luang Prabang, in questa località, i confratelli cari amici li attenderanno a lungo, invano. Iniziano allora le prime ricerche, si esplorano i sentieri già percorsi da Mario e da Siong. Entrambi vanno nel villaggio a cui erano stati chiamati, erano arrivati, viene detto ai confratelli, erano addirittura i malati erano stati curati, poi erano ripartiti, poi il nulla. Avevano però capito tutti che erano stati catturati. E purtroppo temevano molto per le loro vite. Ed era stato proprio così. Dobbiamo però dire, quel martirio, cari amici, sarà il solco per il chicco di grano che morendo si trasforma in buon pane per essere donato ai fratelli di quel paese. E proprio l'ultima liturgia del nostro Beato si è celebrata nel silenzio, diventando lui stesso, possiamo dire, agnello immolato. Per anni, no, abbiamo visto, aveva pregato dopo la comunione di essere sacerdote, apostolo, missionario e martire. il Signore l'aveva ascoltato e dandogli una vita brevissima, aveva, dicevamo, 27 anni. E pensate, la ricostruzione della sua morte e di Paolo Siong, anche egli beato, sono stati appunto, dicevo, beatificati da Papa Francesco nel 2016, questa ricostruzione è avvenuta solo diversi anni dopo, grazie alla tenace ricerca degli oblati e anche alla testimonianza di persone che hanno raccontato poi quello che era successo in quelle ore. Entrambi erano caduti infatti nelle mani dei guerriglieri. Padre Borzaghi era stato denudato della camicia e legato, ma il giovane Paolo con coraggio, dice, le testimonianze dicono questo, gridava ai terroristi di lasciarlo perché era una persona buona, non solo buona, curava i malati, aiutava gli abitanti dell'Aus, perché volevano ucciderlo, perché lo volevano torturare. Insomma, non vollero sentire ragioni e sordi alle suppliche di Paolo, anzi intimarono a lui stesso di allontanarsi dallo straniero bianco, come lo chiamavano, e di tornare a casa sua. E qui la grande fede di questo ragazzo. Pur sapendo a cosa andava incontro, Paolo rifiutò. Si rifiutò di abbandonare padre Borzaga e anche lui fu legato. Poco dopo entrambi furono giustiziati e gettati nella fossa comune. Paolo aveva 19 anni, padre Mario 27. Ma la luce della grazia, cari amici, non può morire. Entrambi sono oggi modelli per la piccola comunità cattolica che nel Laos vive la fede anche se tra ostacoli, tra difficoltà, ma sono una testimonianza meravigliosa di vita evangelica, vissuta nel silenzio ma allo stesso tempo operosa, un'operosità vera, fruttuosa, e che il seme stia germogliando nel Laos lo ha confermato anche Louis-Marie Ling, vicario apostolico di Pakse, che come presidente della conferenza episcopale del Laos e anche della Cambogia, partecipando al sinodo sulla famiglia, ha detto: «La parola di Dio nella vita della Chiesa significa innanzitutto vivere la parola di Dio personalmente, nel silenzio della propria vita privata, nella propria vita nascosta, personale e intima. Il mondo attuale è stanco di ascoltare», ha proseguito Ling, «ma non è affatto stanco di stupirsi, di ammirare e di meravigliarsi per il testimone vero, il testimone autentico, che vive la parola di Dio nella sua vita personale. Il mondo di oggi», conclude, «ha fame e sete di vescovi, di pastori, di consacrati che vivono ciò che predicano e predicano ciò che vivono interiormente. E aggiungiamo noi, cari amici, fanno questo anche a costo della vita, come ha fatto padre Mario Borzaga». Bene, abbiamo terminato la vita e l'orario non ci permette di andare oltre. Io vi do nel frattempo però anche il numero telefonico della Casa Generalizia degli Oblati dell'Immacolata a Roma, quindi potete chiamare per approfondire la vita di questo beato, di questo ragazzo meraviglioso, sacerdote apostolo, e desiderate chiedere immaginetto o quant'altro, potete farlo. Io vi lascio il numero che è 06 39 87 71. Allora, questo è il numero della Casa Generalizia degli Oblati dell'Immacolata a Roma. Lo ripeto, 06 39 87 71. Infine c'è un bellissimo libro tra i tanti che si chiama Romanzo d'amore, edito dalle Paoline, scritto da Paolo D'Amosso, che parla proprio di questa vita meravigliosa, terminata nel sangue per amore di Gesù. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi abbraccio tutti, vi auguro innanzitutto una buona Quaresima, anche una Santa Pasqua, e a Dio piacendo ci sentiremo proprio il lunedì dell'Angelo, che è il 4 e il 5 di aprile. Un abbraccio a tutti e buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.